4. Ruote e dintorni. Amici dei motori e non, buonasera, bentornati ancora una volta al nostro programma che si occupa di auto, di moto, di trasporti, ma di tutto quello che sta intorno ai motori. Quattro ruote dintorni. Allora c'è Peter in regia, ci farà ascoltare le voci di molti protagonisti di questa puntata. Roberto Rasì al microfono vi guiderà attraverso temi, spero, mi auguro, davvero interessanti. Questa sera proveremo la Alfa Romeo Mito. L'abbiamo già provata, vi ricordate, il 1006, ma questa sera proviamo la prima Multi-Air. Finalmente arriva il 1004 Turbo Multi-Air e ne sentirete delle belle. Poi ci occuperemo dell'associazione italiana Ricostruttori Pneumatici. Abbiamo scoperto che 6 aerei su 7 atterrano su gomme ricostruite, una curiosità davvero notevole. Per parlare poi di trasporti, si apre il 16 ottobre a Milano Transpotec 2.0 per chi ama questo settore. Poi ci occuperemo di Case Summit di Koenig, nuove catene da neve, visto che parliamo sempre di gomme invernali, ritorniamo sui nostri passi per le catene da neve e chiuderemo con l'inchiesta, sta diventando davvero famosa, sta facendo discutere questa, sui 30 km orari nei centri abitati. Credo ce ne sia sufficienza per rimanere incollati qui su Radio 24 insieme agli amici di Quattro Ruote. Il primo di loro è Marco Perucca Orfei. Caro Marco, buonasera e bentornato. Ciao Roberto, un saluto a tutti i radioascoltatori. Ricordiamo Marco che oltre al vostro sito quattroruote.it c'è sempre a disposizione la nostra email quattroruote@radio24.it per entrare in connessione con la nostra redazione e fare poi le domande a voi. Alle volte sembra difficile raggiungere giornalisti piuttosto che qualche editore, invece in questo caso è molto molto semplice. Allora, caro Marco, apriamo il discorso Multi-Air. Vogliamo spiegare agli ascoltatori che non lo sapessero ancora che cos'è, perché ne sentiranno parlare? Beh, sì, si tratta di una tecnologia davvero molto innovativa. Mi risulta che sia il primo e per ora l'unico caso in cui le valvole, in questo caso quelle di aspirazione, vengono mosse, attuate non da un sistema meccanico ma da un sistema idraulico controllato elettronicamente. Cioè, in altre parole, nella testa della Mito vi è un solo albero a cam, quello di scarico, quindi il famoso bialbero Alfa ormai è un ricordo. Non c'è più, quindi quella aspirazione non c'è più. Ecco, quindi c'è solo l'albero a cam che aziona direttamente le valvole di scarico. Su questo albero a cam è stata ricavata una terza cam che muove dei cilindretti idraulici. Questi cilindretti sono controllati elettronicamente in funzione di tutta una serie di parametri che vengono dal motore, da come sta funzionando e come sta andando l'automobile. E questi cilindretti sono loro ad aprire le valvole, quindi c'è un controllo estremamente accurato e raffinato di quanto si apre la valvola, quindi dell'alzata, e del tempo per cui viene aperta. Ecco, tutto questo, se uno non fosse un tecnico, dice quindi vuol dire, pensate, migliori prestazioni, ma consumi ridotti e di conseguenza minori emissioni. Questo è merito della tecnica, proprio della tecnologia abbinata ai motori, Marco? Sì, cosa succede? Che avendo un controllo così accurato, diciamo, dell'apertura delle valvole di aspirazione, si può fare a meno della famosa valvola farfalla, quella che parzializza normalmente l'emissione d'aria e miscela in un motore, che sulla Mito c'è ancora per ragioni di sicurezza, ma che è praticamente sempre aperta. Senza la valvola farfalla diminuiscono tutte le perdite di carico che si hanno nei condotti di aspirazione, quelle che vengono definite dai tecnici perdite di pompaggio, e quindi migliora il rendimento del motore soprattutto ai regimi, diciamo, quando l'acceleratore è parzializzato, quando si va piano, che è poi l'uso normale che si fa tutti quanti nell'uso quotidiano. Quindi ai bassi e medi regimi si ha un notevole vantaggio dovuto alla tecnologia Multi-Air, che porta a una riduzione dei consumi del 10%, questo l'abbiamo verificato sperimentalmente nelle nostre prove Vairano. Su tutti i regimi, Marco? No, soprattutto con i medio-bassi, perché avvicinandosi ovviamente ai regimi più alti ci si avvicina alla tecnologia che già conosciamo. Però non è solo questo il Multi-Air, perché avendo una, diciamo, dell'aria molto stabile nei condotti di aspirazione si ha un miglior rendimento anche e un aumento della potenza della coppia massima, anche perché gestendo le valvole in questo modo si possono utilizzare dei profili delle cam. In questo caso si parla ancora di cam, ma non ci sono le cam ovviamente sul lato aspirazione, ma dei profili, diciamo, di apertura delle valvole di aspirazione molto spinti. E quindi, ad esempio, il motore della Mito Multi-Air, nella versione che abbiamo provato noi, eroga 135 cavalli in luogo dei 120 del motore precedente. C'è anche una versione da 170 cavalli che vedremo poi sulla quadrifoglio verde il prossimo anno. Molto bene, sentiamo adesso la scheda che ci racconta le caratteristiche dell'Alfa Romeo Mito 1004 Turbo Multi-Air Distinctive. La Baby Alfa è la prima auto col rivoluzionario multi-air. L'asse a camme d'aspirazione non c'è più. Al suo posto ci sono degli attuatori idraulici controllati elettronicamente. In questo modo le valvole si aprono solo per il tempo necessario e nella misura ottimale per realizzare in ogni condizione d'uso la migliore combustione. Il risultato? Questa Mito è più potente, consuma e inquina meno, è incentivabile ed è ancora più piacevole da guidare. Nome: Alfa Romeo Mito Turbo Multi-Air. Carrozzeria: 3 porte a 5 posti. Dimensioni: lunghezza 4,06 m, larghezza 1,72 m. Peso: 1145 kg. Motore: 4 cilindri turbo. Potenza: 135 cavalli. Trasmissione: trazione anteriore, cambio meccanico a 5 rapporti. Prezzo: da 19.151 euro. Ecco, queste sono le caratteristiche principali dell'auto in sé, come design e come interni non parliamo perché abbiamo già provato il 1006, però parliamo del come va questa vettura. Marco, io da un po' sto stressando gli ascoltatori con il rapporto peso-potenza perché credo fermamente che sia uno dei pochi che davvero conti sull'auto o perlomeno uno dei più importanti. Allora, ho preso il rapporto peso-potenza dell'Alfa Mito 1006 che provammo, non era un rapporto peso-potenza molto efficace, ogni cavallo doveva spingere 11,05 kg. In questa 1.4 turbo multi-air, quindi minore cilindrata, ci sono 135 cavalli, ogni cavallo spinge solo 8,48 kg. Inizia a essere un rapporto interessante. Sì, sicuramente con questo motore la Mito ha prestazioni davvero interessanti, quasi da sportiva, insomma, in tono con quelle che sono che devono essere le caratteristiche di una vera Alfa. Aggiungo poi che, diciamo, l'introduzione del multi-air è stata l'occasione anche per i tecnici Alfa per mettere le mani un po' dappertutto, per cui hanno modificato un pochino la taratura delle sospensioni, rivisto lo sterzo che è elettrico, rivisti ancora la taratura dei sistemi di controllo di trazione e stabilità che sono veramente molto raffinati su quell'auto, soprattutto pensando alla categoria dell'auto, e anche la finitura è migliorata a qualcosa, l'auto è più curata. E quindi devo dire che questa Mito Mutier mi ha sorpreso favorevolmente, è un'auto molto equilibrata, piacevole, molto veloce volendo, divertente da guidare e sicura, direi, in tutte le condizioni, anche se rimane un'auto senz'altro vivace, insomma divertente. Ecco, è vivace, però parliamo un attimo di sicurezza, perché sapendo che va in mano a molta gente giovane, il fatto che sia veloce può spaventare. In realtà, a parte la testa che va e andrebbe sempre usata, però auto come questa cosa fanno? Assommano anche tutta la tecnologia in base alla sicurezza che c'è oggi, a cui siamo arrivati. Sì, loro sulla Mito vi è il famoso manettino, anche lì un manettino in stile Ferrari per intenderci, questo è posizionato non sul volante ma sul tunnel centrale e ha tre posizioni, si parte da quella normale, poi ce n'è una invece più conservativa, viene chiamata all weather, e una sportiva chiamata dynamic. Cosa succede? Che con questa, azionando questo manettino, si hanno praticamente tre setup della macchina per quanto riguarda lo sterzo, i controlli di trazione e stabilità più o meno diciamo attivi sulla vettura, la risposta del motore e così via. In ogni caso viene garantita la sicurezza di marcia. Comunque, quando si mette il manettino in dinamico, ovviamente la macchina si muove un po' di più. Chi vuole guidare può guidare davvero, pur sapendo che se esagera oltre un certo limite c'è sempre l'elettronica che arriva a riprenderlo e a rimetterlo, diciamo, in carreggiata. Il sistema non è disinseribile, questa è una scelta che l'Alfa ha fatto proprio pensando ai più giovani. Ma io direi a tutti, perché non sono così critico, devo essere sincero verso i giovani, è un discorso che riguarda evidentemente tutti. Il sistema non è disinseribile, uno lo può settare su queste tre posizioni. Se vuoi stare tranquillo, viaggia con manettino in comfort, nella posizione normale. Quando piove, bagnato o è sulla neve, lo metti in all weather. Bene. E la sicurezza è garantita. Molto bene, grazie davvero a Marco Perucca di Quattro Ruote, a presto e buona serata. Di nuovo arrivederci a tutti i radioascoltatori. Noi chiudiamo con questa prova attraverso la pagella che darà i voti a questa Alfa Romeo Mito 1.4 Turbo Multi-Air. Posto guida. Sportivo con piano di seduta basso, sedile avvolgente e volante verticale regolabile. Voto 5 stelle. Finitura. Questa nuova versione della Mito è più curata. Questione di dettagli, ma l'impressione è positiva. Voto 4 stelle e mezzo. Comfort. L'assetto è decisamente rigido, sportivo. Si soffre un po' sullo sconnesso. Rumorosità non eccessiva. Voto 3 stelle e mezzo. Motore. Potente e sempre disponibile, risponde bene già dai 2000 giri. È il motore giusto per la Mito. Voto 5 stelle. Freni. Gli spazi d'arresto non sono molto contenuti. Richiede attenzione sul bagnato con aderenza differenziata. Voto 3 stelle e mezzo. Su strada. Tenuta elevata, stabilità ineccepibile, ma anche tanto divertimento in modalità dynamic. Voto 5 stelle. E termina qui la prova dell'Alfa Romeo 1004 Mito. Maggiori informazioni su quattroruote.it oppure anche su radio24.it. Quattro ruote e dintorni. Adesso ci occupiamo di catene da neve, voi direte, eccolo lì, come sempre il buon Rasia su Radio 24 arriva l'inverno e inizia a romperci le scatole con le gomme e quant'altro. Avete ragione, perfettamente, però sapendo quanto è importante, lo faccio volentieri per tutti noi, per la sicurezza di chi ci circonda. Però questa volta non parleremo oggi perlomeno di gomme invernali, di cui parliamo sempre, ma di catene, perché ci è venuta anche la curiosità di capire che cosa sia successo nel settore dopo l'aumento delle vendite e della diffusione delle gomme invernali a chi invece produce e continua a produrre le mitiche catene da neve, perché queste ultime sono molto migliorate. Lo chiediamo ad Alberto Guidotti, parleremo oggi con lui di Case Summit, se si dice così, di König. Alberto Guidotti, l'amministratore delegato appunto di König. Buona serata. Buona serata a lei. Si chiama Case Summit, giusto? Assolutamente, perfetto. Case Summit è l'ultimo prodotto nato nella famiglia König. Molto bene. Allora, prima di arrivare al prodotto, vorrei aprire questo discorso, questo dialogo che faccio con lei insieme agli ascoltatori dal generale, così poi arriviamo al particolare. Ci fa capire che cosa è successo nel mondo delle catene da neve negli ultimi anni? Dunque, io vorrei partire col darvi magari qualche informazione generica sulla dimensione del mercato delle catene da neve. Cosa vuol dire catene da neve in Italia e in Europa? Il mercato è sicuramente un mercato che è importante. Parliamo a livello italiano di un consumo annuo di circa 600.000-750.000 catene, a seconda, diciamo così, delle condizioni atmosferiche della stagione. È evidente che in inverni molto nevosi il consumo sale e di conseguenza la potenzialità del mercato aumenta. Per renderci conto della grandezza del mercato. Ecco, a livello europeo questo mercato può valere qualcosa tra i 2 milioni e i 2 milioni 300 mila paia di catene. Sì. Evidentemente la maggior parte di questo mercato è focalizzato su quello che noi chiamiamo il segmento passenger o light truck, quindi vetture tradizionali SUV o crossover, che rappresentano qualcosa come l'80-85% del mercato di cui parlavo prima, mentre la restante parte è molto focalizzata su applicazioni speciali, come noi chiamiamo professionali, quindi truck o macchine per lo spalamento della neve o mezzi particolari comunque che devono muoversi in condizioni disagiate. Chiaramente l'Italia in Europa ha un ruolo di leadership dal punto di vista del mercato, però anche gli altri paesi dell'arco alpino, Francia, Germania, Svizzera in particolare, sono comunque mercati altrettanto importanti. Questo per evidenti motivi geografici e quindi climatici, è chiaro. Bene, questo per inquadrare il sistema. Mi dica una cosa, con la diffusione delle gomme da neve, delle gomme meglio invernali, abbiamo imparato ad usare questo termine che è più corretto, voi avete visto, intendo voi proprio come costruttori, produttori di catene da neve, una diminuzione di quanta percentuale in circa di vendita di catene da neve? Ma direi che indubbiamente è giusto parlare di pneumatico invernale e non di pneumatico da neve, perché di fatto oggi l'utilizzo del pneumatico invernale è un utilizzo che viene fatto per avere maggior sicurezza nell'arco di una stagione, non solamente in condizioni di neve ma anche in condizioni di asfalto viscido, di asfalto bagnato, eccetera eccetera. È chiaro che questa abitudine a montare pneumatici invernali ha comunque ridotto in qualche misura il mercato delle catene da neve e noi stimiamo nell'ordine del 10-15%. D'altra parte ci teniamo a dire, e cerchiamo di riaffermarlo anche in tutte le occasioni in cui veniamo chiamati in causa, che l'utilizzo del pneumatico invernale non esclude la catena da neve, anzi noi diciamo che il pneumatico invernale è assolutamente importante da montare perché comunque dà maggior sicurezza nella maggior parte delle condizioni di utilizzo, Però in condizioni di neve, in situazioni per esempio in cui si guida in discesa, magari con macchine pesanti come i SUV, comunque il pneumatico invernale non dà quelle garanzie di sicurezza che dà comunque una catena da neve. Per cui riteniamo che l'accoppiata catena da neve pneumatico invernale sia comunque un'accoppiata vincente. Ah beh, assolutamente vincente per la sicurezza di tutti noi. Non dimentichiamo che si rivolgono alle catene da neve, credo che lei questo lo insegni, soprattutto coloro che in quelle zone piene di neve ci vanno una, due, tre volte in un anno, non certo ci vivono. Assolutamente, no, sono d'accordo con lei. C'è da dire che poi c'è tutto il segmento, come dicevo prima, di professional che in realtà non ha sostituti, nel senso che in quel tipo di applicazione la gomma da neve è ancora l'unica soluzione per consentire ai mezzi di muoversi agevolmente con sicurezza. Bene, veniamo a noi allora. Case Summit, che cos'è? Lo descrive agli ascoltatori perché ha delle particolarità che secondo me possono interessare. Ma sì, direi che innanzitutto Case Summit, come dicevo prima, è l'ultimo nato nella famiglia Koenig. Quello che lo differenzia dagli altri prodotti è essenzialmente il fatto che stiamo parlando di una catena a montaggio frontale che non interferisce quindi con gli elementi meccanici interni del pneumatico, ecco, e della scocca. Anche perché, dottor Guidotti, c'è da dire questo, che è sempre stata un'impresa montare le catene da neve, da qualche anno è realmente diventato più semplice. Sì, Case Summit noi diciamo è la catena esterna più facile da montare, in quanto si monta con tre velocissime operazioni e soprattutto poi si autoposiziona da sola sul pneumatico. Innanzitutto si fissa su uno dei dadi originali dei cerchi, senza quindi la necessità di utilizzare degli accessori specifici di montaggio che debbono poi essere lasciati montati sul mozzo, sul pneumatico. Si serra in maniera intuitiva il dado centrale e poi viene serrata con un cricchetto molto intuitivo, in modo da far sì che il battistrada aderisca in maniera perfetta al pneumatico. Questo per noi è un elemento fondamentale, in quanto intuitività e semplicità di montaggio sono i due concetti che stanno guidando lo sviluppo dei nostri prodotti per quanto riguarda le nuove evoluzioni di catene che dovranno essere lanciate sul mercato. Dottor Guidotti, chiudiamo con il prezzo, il pubblico preciso e il dove trovarle. Le catene Case Summit si trovano in tutti i migliori negozi di autoaccessori, autoricambi e gommisti in Italia e in Europa. Il prezzo al pubblico è di 306 euro più IVA per tutte le dimensioni dedicate all'utilizzo a bordo di autoveicoli e di 340 euro più IVA per tutte le versioni dedicate ai crossover. Molto bene, grazie davvero ad Alberto Guidotti, amministratore delegato di Koenig, a presto e buona serata. Grazie a lei, la saluto. Rimaniamo però in questo campo perché non possiamo trascurare gli pneumatici. In realtà ci spostiamo di settore, pensate, da quello motoristico su strada a quello motoristico aeronautico. Ogni tanto ce ne occupiamo per via dei dintorni del nostro titolo, lo sapete, quattro ruote e dintorni, e parliamo di AIRP, l'Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici. Al telefono c'è il dottor Servadei, segretario generale. Allora buonasera e benvenuto anche a lei. Buonasera a voi. Senta, la notizia in realtà riguarda gli aerei, però direi anche in questo caso di prenderla larga. Che cos'è uno pneumatico ricostruito, per i pochi che ancora non lo sapessero? Ma sintetizzando, noi possiamo dividere il pneumatico in due parti, ovviamente è una estrema sintesi e i tecnici probabilmente allibiranno a questo discorso perché il pneumatico è un prodotto estremamente complesso. Parliamo di una struttura che è quella che sostiene il peso del veicolo, che ovviamente è progettata per durare ben oltre la vita del pneumatico, e il battistrada, che è il materiale di consumo. Sostanzialmente il materiale di consumo è un compromesso, perché è un compromesso tra durata e prestazioni, tenuta di strada, frenata, e quindi ovviamente non può durare come dura la carcassa. La ricostruzione sfrutta questa differenza di battistrada, ripristinando il materiale di consumo con materiali del tutto simile all'originale, e fa sì che noi, anziché dover buttare il pneumatico quando esaurito la prima vita, possiamo riutilizzarlo anche più volte sostanzialmente. Decisamente. Allora parliamo di aerei. A che stress è soggetta una gomma di un aereo? Ma il peso di un aereo in atterraggio è veramente importante, ovviamente dipende dal tipo di aereo, ed evidentemente in questo caso dopo alcuni cicli il pneumatico anche in questo caso andrebbe buttato. Le compagnie aeree però, che sono particolarmente attente a questo tipo di costo, che è un costo importante per loro, fanno ricostruire i pneumatici. Naturalmente i pneumatici da aereo hanno strutture diverse rispetto ai pneumatici per autocarro o per vettura, comunque il principio è sostanzialmente lo stesso, ci sono ditte specializzate che ripristino il battistrada e quindi possiamo continuare ad atterrare su pneumatici ricostruiti in tutta sicurezza. Ecco, questa era un po' la notizia. Ci può dare qualche numero della diffusione di questo fenomeno? Perché qualcuno può dire, ma insomma tutto sommato sarà un 5%, un 10%. Invece ci sono tanti aerei che atterrano su gomme ricostruite. Sì, secondo uno studio che è stato effettuato dal TRIB, che è il Tire Tread Repair Bureau, che è diciamo un centro studi americano che si occupa appunto di studiare i fenomeni della ricostruzione, 6 atterraggi su 7 avvengono su pneumatici ricostruiti, quindi ben più diciamo della metà. Noi praticamente quando atterriamo molto probabilmente atterriamo su pneumatici ricostruiti anziché su pneumatici nuovi, ma ripeto, la cosa non ci deve minimamente dare nessun tipo di sensazione per il fatto che il pneumatico ricostruito è sottoposto a tutta una serie di verifiche strutturali per quanto riguarda soprattutto la carcassa che viene ricostruita, e quindi diciamo bene, si può operare con la stessa sicurezza del pneumatico nuovo. Con tranquillità. Quattro ruote e dintorni. Allora, bentornati a Quattro Ruote e Dintorni. Buonasera e benvenuta a chi questa sera di sabato ascolta il programma di motori di Radio 24. Questa è l'ultima parte, abbiamo ancora due temi importanti. Stiamo chiudendo la chiacchierata con l'AIRP, l'Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici. Siamo al telefono con Renzo Servadei, ne è segretario generale. Ancora una domanda sulla sicurezza, perché dal 2006 c'è un obbligo importante a cui non tutti ottemperano, vero dottor Servadei? La sicurezza secondo noi è la cosa più importante, sia per quanto riguarda la vettura in generale, ma in particolare per quanto riguarda il pneumatico. Noi come associazione ci siamo battuti perché diventi obbligatoria l'omologazione del pneumatico ricostruito. Acquistare un pneumatico ricostruito omologato significa acquistare un prodotto che è stato sottoposto a tutti i test previsti per l'omologazione di un pneumatico nuovo, avere diciamo un produttore che è in regime di qualità tipo ISO 9000 per capirci, e quindi il suggerimento che possiamo dare agli ascoltatori è quello di verificare che ci sia il marchio di omologazione, che tra l'altro prevede la tracciabilità del prodotto, quindi il nome del ricostruttore deve essere ben impresso sulla carcassa, perché chi ricostruisce si assume la piena responsabilità del proprio prodotto, ripeto, avendo fatto tutte le verifiche e i test del caso. Ultima curiosità, dottor Servadei, quanto costano in meno gli pneumatici ricostruiti? Diciamo che dipende anche in questo caso da prodotto e prodotto, i pneumatici sono molto diversi, ma diciamo circa il 50%, l'altro grande risparmio di natura ecologica, nel senso che ricostruendo pneumatici si evita di buttare in discarica dei prodotti che possono ancora essere utilizzati e si evita di importare materie prime importanti come petrolio, plastificanti, acciaio. Infatti, con una notevole riduzione anche delle emissioni nocive. Molto bene, grazie davvero all'AIRP, Associazione Italiana di Costruttori Pneumatici. Buona serata, dottor Servadei. Buonasera a voi. Passiamo adesso ad un argomento che di pneumatici si occupa parecchio, quello del trasporto, perché il 16 ottobre inizierà una fiera importante, si chiama Transpotec 2.0, una denominazione mutuata, lo sapete, dal linguaggio del web che indica una certa contemporaneità, o questo vorrebbe essere. Ne parliamo con un esperto del settore, Giuseppe Guzzardi. Buonasera Giuseppe, ti do del tu perché siamo giornalisti, quindi questo vuole l'etichetta. Ciao. Buonasera a tutti voi e ciao a te. Senti, ci spieghi che cos'è Transpotec 2.0? Tu sai che noi ci occupiamo per l'80% di auto e per il 20% di altro, tra cui trasporti, per cui illuminaci. Purtroppo dovreste un po' invertire mea culpa. Questa percentuale, perché i trasporti sono un argomento così trasversale e così importante della vita di tutti noi che meriterebbero più attenzione e meno demagogia. Transpotec 2.0 è un termine mutuato dalla vecchia denominazione del Salone Internazionale del Veicolo Industriale che si svolge in Italia, Transpotec Logitech. 2.0 è un segnale di innovazione, di cambiamento, di un nuovo modo di intendere gli eventi, soprattutto quelli che sono diretti all'utilizzatore finale, in questo caso la ditta di autotrasporto, il camionista e dall'altra parte della barricata il dealer, il concessionario, quindi sì, privilegiare di più le persone piuttosto che le grandi società. Questo tanto per dare un'infarinatura, quali sono i temi principali di quest'anno? Perché noi, parlando appunto di auto, abbiamo affrontato questo 2009 che sai essere stato un po' l'anno horribilis, e poi con un colpo di coda finale sembra che il mercato auto si stia risollevando, grazie soprattutto, devo dire, agli incentivi e alla buona sensibilità degli automobilisti. I trasporti come se la cavano? Molto peggio, perché la flessione nel settore del veicolo industriale per alcune case sfiora il 70-75%, mentre per i veicoli commerciali si attesta in alcuni casi al 25-30%. Questo perché è un dato alla produzione, diciamo, perché molto spesso i piazzali delle filiali italiane sono pieni di veicoli che erano stati ordinati in funzione di una previsione di vendita diversa da quella che è stata poi la realtà. Quindi il transport che vuole essere prima di tutto un segnale di fiducia, di entusiasmo, di voglia di fare, di voglia di credere in questo settore. E poi ci sono degli altri argomenti molto importanti, cioè la necessità che hanno in questo momento le istituzioni di dialogare con la base, quindi con le associazioni di categoria, sì, ed è per questo che noi abbiamo creato dei tavoli tecnici, 5 tavoli tecnici, che se vuoi posso anche dirti quali sono. Beh, magari ne scegli 2 o 3 interessanti, volentieri, anche perché il nostro paese si basa ancora profondamente, lo dico nel bene e nel male, sui trasporti su gomma, no? Assolutamente sì. Allora te ne dico 3 che sono quelli fondamentali. L'abusivismo, che sembrerà strano, ma comprende un po' tutta la problematica dell'autotrasporto. La sicurezza stradale delle infrastrutture, il vecchio tormentone. E infine, molto interessante, l'accesso alla professione. Sono 5 tavoli tecnici che si svolgeranno il sabato 17 in Fiera Milano. Questi faranno parte di questi stati generali dell'autotrasporto che un po' presuntuosamente abbiamo voluto convocare a Milano, no, in occasione del Transpotec. L'altro punto positivo del Transpotec è la possibilità di provare veicoli nuovi e usati su un circuito veramente avvincente, 4,5 km con delle rampe molto divertenti e nel pieno rispetto della sicurezza. Molto bene, diamo anche qualche informazione logistica, ti chiedo dove si trova esattamente Transpotec, che parte venerdì 16 ottobre, ci dici un po' di durata e dove venire a vederlo. 18, ingresso gratuito, Fiera Milano Ropero, diciamo la Fiera Nuova, padiglione 22 e area esterna interamente dedicata alle prove, ai veicoli militari, overland, ci saranno poi i camion decorati, insomma sarà una grande festa, dal 16 al 18 ingresso gratuito, l'avevo già detto. Molto bene, grazie davvero a Giuseppe Guzzardi, a presto e buona serata Giuseppe. Grazie a voi e buon viaggio. Allora, ringraziato e salutato Giuseppe Guzzardi, passiamo ad un altro collega, un altro esperto di motori, questa volta di quattro ruote, Emilio De Leidi, che conoscete molto bene. Caro Emilio, buonasera e bentornato. Eccomi Roberto, buonasera a tutti. Questa volta Emilio ci porta un'ennesima inchiesta interessante, ma che è attualissima. Sta facendo discutere tutta Italia del settore, ovviamente, ma non solo, i famigerati 30 km orari nei centri urbani. Inquadriamo la situazione, Emilio. Diciamo che il tema è esploso un pochino al rientro delle vacanze con diverse città, diversi anche assessori alla mobilità, al traffico, che hanno annunciato l'intenzione di introdurre nelle zone così più residenziali delle nostre città il limite, le cosiddette zone 30, che ci sono già anche in alcuni paesi stranieri e che comportano, oltre a un abbassamento del limite di velocità a 30 km all'ora, dai 50 previsti in area urbana, anche l'uso di barriere come rallentatori, fioriere, restringimenti di marciapiedi e così via. C'è stata un'accoglienza entusiastica da parte di alcuni sindaci come quella di Verona e come l'assessore di Roma alla mobilità, mentre il sindaco di Firenze ha detto subito: noi l'abbiamo fatto qualche anno fa e c'è stata una rivolta di piazza. questo, come è nella tradizione di quattro ruote, noi abbiamo preferito provare concretamente sul campo che queste cose non funzionano, facendoci prestare da una ditta che le distribuisce in Italia un telelaser, sapete, una di quelle pistole che servono a misurare la velocità a distanza, e andando in due città dove le zone 30 esistono esattamente: Verona, il cui sindaco è un fautore entusiasta di queste iniziative, e alcune parti di Roma. Immagino che siate curiosi di sapere i risultati di questa indagine. Decisamente, anche perché essendo così attuale ha fatto discutere parecchi sindaci, ma anche molti cittadini, devo dire. Allora, l'85% delle veicoli, compresi veicoli commerciali e mezzi pubblici che abbiamo rilevato a Verona, superava i limiti di 30 km all'ora. L'85% lo superava. 82% di quelli che personalmente ho rilevato in diversi punti di Roma superava i 30 km all'ora. Tra questi, regolarmente anche gli autobus dell'ATAC, cioè i mezzi pubblici. Naturalmente prove strumentali, naturalmente tutte garantite ovviamente da voi. Ti chiedo questo non significa ovviamente bocciare una proposta, perché se tutti superano il limite di velocità non è vero che il limite di velocità è sbagliato, ma cerchiamo il senso di questo limite di velocità. No, Roberto, io penso che questo limite di 30 all'ora sia sbagliato, nel senso capiamo che perché. Quasi tutti rispettano perfettamente il limite dei 50, che è assolutamente coerente con le condizioni di traffico. Laddove i veicoli vanno a meno di 50 km all'ora è perché lo sono costretti o dalla conformazione della strada, e ci sono delle strade di Roma nel centro storico dove i 30 all'ora sono addirittura impensabili, perché sono così strette, così storiche, così mal pavimentate, che bisogna andare a 15 o a Passo Duomo, oppure il congestionamento del traffico fa sì che tu non possa neanche andare a 30 all'ora. Ma è insensato anche dal punto di vista tecnico, e qui abbiamo interpellato anche il nostro ingegnere collaboratore Paolo Massai, con un passato in Ferrari, Alfa Romeo, lo conoscerete, costringere chi utilizza automobili moderne a guardare continuamente il tachimetro per non rischiare di superare i 30 all'ora, quando viaggiando al minimo in seconda marcia l'automobile supera già da sola questa velocità. E qui c'è un aspetto proprio cognitivo, quindi tutto il tempo che si passa, e sono frazioni di secondo importante, uguale metri percorsi con l'occhio sul cruscotto per dire oddio sto andando a 40, devo ridurre, vuol dire non guardare la strada. Questo indubbiamente è un pericolo notevole, come dire, per andare piano rischio di distrarmi di più. Bravissimo, hai centrato il problema. Non solo, anche dal punto di vista ambientale non ci sono vantaggi, ed è facile spiegarlo. Molto spesso per riuscire ad andare a velocità così bassa bisogna mettere una marcia inferiore, quindi questo significa un aumento di giri, un aumento dei consumi e un aumento delle emissioni nocive. Non solo, i rallentatori rispetto a una velocità bassa ma costante, sto parlando di quei famigerati dossi che stanno riempiendo le nostre città, comportano il fatto che ci sia una decelerazione e una riaccelerazione, e quindi una perdita di energia con conseguente aumento di consumi e ulteriore aumento dell'inquinamento. Certo, quindi certo, reali vantaggi non ce ne sono di fatto. È chiaro. Senti, chiudiamo in 30 secondi, come finirà questa storia secondo te? Finirà che purtroppo spesso le ragioni della tecnica non vengono tenute in conto quando ci si muove sull'onda di decisioni emotive, magari sulla scorta di episodi, incidenti, sacrosanti reazioni a investimenti di pedoni e cose di questo genere. Quindi temiamo che purtroppo ci possa essere questo atteggiamento. Di fatto però invitiamo tutti a prendere una posizione, non perché siamo dei patiti della velocità e chi conosce quattro ruote sa benissimo che non siamo tra questi, ma perché vogliamo semplicemente delle norme realistiche, facili da rispettare e realmente applicabili. Sei stato molto chiaro, come sempre. Grazie Emilio De Leidi di Quattro Ruote, a presto e buona serata. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Con la sua voce termina anche la nostra trasmissione, che torna però puntuale sabato prossimo alle ore 21, Quattro Ruote e dintorni. Grazie a Peter in regia, a voi che ci avete scelto ancora una volta, e vi auguro soprattutto una buona domenica e, più di ogni altra cosa, una buona guida.